paina, pieva se paina, pieva se paina pe il tren cariva, molai la bagaja ed il bivesci. La fai alla clave la locomotiva e ed il biglietto a sti. Grazie a Dio, pinada, ai ai ai, son pinada, pinada, oggi ai ai, son pinada. Se fai una piltren di Jordan che fa da passaggi sui binari del club, arvel lo sport è lifestyle di Jordan, il hai platz per tutti quels che carezzen fit. La calma.